Sole 24 ore, edizione extra large. Ballottaggi dentro i partiti, è il momento delle analisi. Il PDL festeggia per la provincia di Milano. Pochi istanti fa le parole di Silvio Berlusconi, dice: ha vinto il PD, vorrei sempre perdere così. Intanto il Partito Democratico ragiona sul congresso e sull'alleanza con Casini. Due nuove forti scosse di terremoto nell'Aquilano, la prima ieri sera di 4,5 gradi della scala Richter, avvertita anche a Teramo, Pescara e Roma, la seconda questa mattina. Ha difeso un gruppo di omosessuali aggrediti dagli skinhead, ora una ragazza di Napoli di 27 anni picchiata a sua volta dai nazisti rischia di perdere un occhio. Lotta all'evasione, la Guardia di Finanza fa meglio del 2008, nei primi 5 mesi recuperati quasi 14 miliardi di euro. Intanto OCSE ed Europa lanciano nuovi allarmi sull'Italia. Secondo Bruxelles il debito pubblico peserà sulla ripresa, secondo l'organizzazione di Parigi preoccupa la spesa pensionistica. Iran, il Consiglio dei Guardiani ha deciso, le elezioni non saranno ripetute. Ahmadinejad verso il giuramento entro la metà di agosto, la protesta non si ferma. Il comitato dell'UNESCO riunito da ieri deciderà se le Dolomiti sono patrimonio dell'umanità. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Una buona giornata da Simone Spezia. Naturalmente in primo piano oggi ci sono i ballottaggi, Simone. Sì, con il PDL che conquista Milano e Venezia, mentre il Partito Democratico si afferma al centro-sud. Per i dettagli ci colleghiamo con Roma, con la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta, facciamo un punto. Un conto a favore del centro-destra se si calcola la differenza tra primo e secondo turno delle amministrative, anche se c'è da dire che l'astensionismo ha penalizzato il Popolo della Libertà e comunque il centro-sinistra ha frenato l'emorragia di voti delle scorse elezioni politiche. Il commento subito del Premier Silvio Berlusconi ricalca i risultati. Se questa per l'opposizione è una vittoria, dice il Presidente del Consiglio, non vogliamo sempre perdere così. Il PD invece si prepara alla direzione di venerdì in vista del congresso che vede due schieramenti, da una parte Franceschini appoggiato da Veltroni e dall'altra Bersani appoggiato da D'Alema. Ma vediamo come sono andati questi ballottaggi nei comuni. Conferma del centro-sinistra a Bologna, Firenze, Bari e Padova, scontate con oltre il 60% dei consensi. L'elezione di Matteo Renzi a Firenze e Flavio Del Boni a Bologna, più critiche quelle di Bari e Padova. Nella città veneta Flavio Zanonato si conferma sindaco malgrado l'apparentamento dello sfidante Marco Marin con l'UDC, mentre a Bari vince Emiliano, candidato del centro-sinistra, con un astensionismo che danneggia il centro-destra. Veniamo adesso ai ribaltoni del centro-destra che prende i comuni di Caltanissetta, Cremona e Prato, una vittoria in una regione da sempre appannaggio dell'opposizione. Conferme del PDL ad Ascoli Piceno e a Brindisi. Due province, il centro-sinistra si riafferma a Torino con un successo di Saitta al 57%, cambia invece a Milano, dove la battaglia è stata vinta dal candidato del centrodestra Guido Potestà con solo 4.000 voti di scarto rispetto allo sfidante. Il centrodestra espugna Venezia con la leghista Francesca Zaccariotto, Belluno e Lecce per un soffio. Il PD mantiene le province dell'Emilia-Romagna, tranne Piacenza, Umbria, Toscana e Basilicata. E per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Noi per commentare questi dati appunto sui ballottaggi abbiamo in studio il politologo e direttore del Mulino Piero Ignazzi. Buongiorno Ignazzi. Buongiorno. Allora, inizierei Ignazzi dallo stato del Partito Democratico al nord. In parte abbiamo sentito il puntuale riassunto, più che in parte, della nostra Elisabetta Fiorito, la perdita di Cremona della provincia di Milano, eppure sembra reggere a Milano città innanzitutto, e in secondo luogo vincere a Padova, insomma la conferma in qualche modo di un nuovo corso che può funzionare, quello di Zanonato. Il Partito Democratico, come molti altri partiti della sinistra in Europa, ha difficoltà a interpretare dei problemi nuovi che emergono nelle società post-industriali, che sono quelli di un lavoro che non è più rappresentato ai sindacati come un tempo, e sono quelli anche dello spaesamento di molte componenti popolari, che spesso facciamo riferimento alla sinistra, contrastate da problemi nuovi, quali sono quelli dell'immigrazione, quali sono quelli del rapporto diretto e a volte anche competitivo sui luoghi di lavoro con questi nuovi venuti. La sinistra in generale in Europa, il Partito Democratico, ancora peggio si potrebbe dire qui in Italia, non ha trovato le parole giuste, non ha trovato gli argomenti giusti per poter intercettare le domande e anche le ansietà di queste componenti popolari, che infatti si rivolgono verso altre formazioni che ne offrono di più semplificate, diciamo così. Quando c'è invece un leader politico come il sindaco di Padova e lo stesso presidente della provincia di Milano, in realtà, che poi ha mancato per un soffio la rielezione, che hanno la capacità di entrare in contatto con questi ceti un po' più come dire, spaventati da questi fenomeni, allora i risultati vengono. Questa volta i ballottaggi, l'UDC ha deciso caso per caso chi appoggiare, cioè se la coalizione di centrodestra o quella di centrosinistra. Quanto ha pesato effettivamente l'UDC? È stato un po' l'ago della bilancia, secondo lei? In certe situazioni, soprattutto al sud, dove l'UDC ha un serbatoio di voti molto più rilevante rispetto al nord, questo ha avuto certamente un effetto. Dalle alleanze elettorali caso per caso, come ha fatto l'UDC, a pensare e prefigurare un rapporto stabile a livello politico, credo però che insomma, il passaggio non sia né rapido né neanche indolore. Del resto le cose sono andate bene anche dove l'apparentamento era con la sinistra radicale per il Partito Democratico. Infatti, quindi definire proprio una strategia del PD di allargamento verso l'UDC è un po' complicato e potrebbe creare delle uscite da un'altra parte, quindi secondo me il problema dovrebbe essere trattato con una certa delicatezza da parte dei dirigenti del PD, non so se ci riusciranno. Si è discusso molto negli ultimi giorni di campagna elettorale del cosiddetto Barrygate, questa inchiesta che riguarda diciamo le ragazze anche che sarebbero state pagate per partecipare a delle feste a casa di Berlusconi. Quanto questa inchiesta può aver pesato per esempio anche nel caso di Bari? Proprio Bari città si votava, lo ricordiamo, per il comune, e Michele Emiliano del centrosinistra ha ottenuto quasi il 60% delle preferenze rispetto al 40% del candidato del centrodestra. Io credo che questo scandalo, possiamo definirlo tranquillamente così, abbia soprattutto demotivato quegli elettori che sono già un po' lontani e un po' estranei alla politica, cioè quegli elettori che tendono a considerare la politica come qualcosa di brutto, di sporco, di lontano. Questo tipo di elettorato esiste sia a destra che a sinistra. A destra per ragioni diciamo un po' più tradizionali, a sinistra perché è interpretato soprattutto da quelle componenti che potremmo definire grilline, insomma, dell'antipolitica come si è manifestato negli ultimi due anni. E quindi questi sono fasce di elettorato che sono sensibili a reagire di fronte a questi avvenimenti e confermano quindi una loro immagine molto negativa, e da questa conferma traggono poi un'astensione soprattutto. Astensione però non ha favorito né a questo punto il centrodestra né il centrosinistra. No, infatti credo che sia equidistribuito con una leggera... del tutto un'impressione perché non ci sono dati, credo sia abbastanza equidistribuito con una leggera preferenza ovviamente per il centrodestra, dove questi sentimenti sono di solito più ampi rispetto all'area di sinistra. Grazie a Piero Ignazzi, politologo e direttore del Mulino, per essere stato con noi a commentare questi dati. Adesso noi passiamo a parlare del terremoto, Alessandra. Sì, perché la notte scorsa c'è stata una forte scossa in Abruzzo, è stata una delle repliche più importanti dal terremoto del 6 aprile. Allora ci colleghiamo in diretta con L'Aquila, Marcello Ianni. Buongiorno, la nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 ha riportato ieri il panico tra le popolazioni colpite dal terremoto. La terra è tornata violentemente a tremare alle 22.58 con la scossa avvertita anche a Roma, Pescara e Teramo, ma anche intorno all'una di notte con un magnitudo 3.1 e 3.8 alle 2.41. E la terra è tornata nuovamente a tremare alle 10.35 di questa mattina con un magnitudo 3.5, sempre con epicentro nei comuni di Barete, Pizzoli e Capitignano. Una situazione che non dà tregua, e tra la gente è tornata la paura, soprattutto per chi era già rientrato a casa, e così migliaia gli sfollati hanno passato la notte all'aperto, al freddo, terrorizzati. Le poche centinaia di persone che negli ultimi tempi erano rientrate nelle abitazioni dichiarate agibili si sono riversate subito per le strade e sono rimaste fuori rifugiandosi nelle auto. È stato confermato che non vi sono stati feriti, ma alcuni crolli di mura già pericolanti sono stati segnalati in più parti del territorio, tra cui Bazzano, Roio, e tantissime sono state le chiamate vigili del fuoco. Una vera e propria emergenza, tanto da mettere in allarme i centri operativi misti che hanno chiesto alle tendopoli di accogliere eventuali richieste di ospitalità. Infine il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha dichiarato che non sono previste nuove verifiche nelle abitazioni dopo la scossa di magnitudo di 4.5 di ieri sera. Questo dopo un consulto che il primo cittadino ha avuto con degli esperti, durante il quale è stato stabilito di attivare controlli a campione, soprattutto sulle emergenze e criticità che già si conoscevano. Per il punto è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Marcello Ianni. Citavi poco fa il sindaco Massimo Cialente, ebbene Katia Caramelli lo ha raggiunto questa mattina. È una cosa stridente, il motivo per cui nel momento del terremoto io devo dire che ho avuto anche un po' di paura, di timore, perché è stato forte ed è stato prolungato. Ma soprattutto la sensazione che ho avuto è stata un po' di rabbia e delusione, perché proprio ieri mattina avevamo tenuto una riunione che avevo anch'io sollecitato per accelerare al massimo tutte le procedure per applicare l'ordinanza, per favorire il rientro nelle case, quindi partire anche con un impegno gravosissimo per il comune per avviare i lavori di ripristino, in particolare quelle che sono le case B e C, che sono quelle che hanno dei danni strutturali che attualmente rendono parzialmente o totalmente inagibili. E nel momento in cui si stava trovando il coraggio da parte di tanti cittadini di rientrare nelle case, è chiaro che questa cosa, anche se gli scienziati ci dicono che si tratta di un fenomeno tipico dell'Appennino, di questo perdurare, no? di questi fenomeni, di questa notte, poi dopo le scosse, chiaramente ho girato. E per la città, anche la periferia e alcuni dei cittadini, no, io credo tutti dei pochi cittadini che erano già rientrati nelle appartamenti agibili, li ho trovati e salutati per strada con le coperte addosso, anche perché devo dire che sono due giorni e non fa un caldo afoso. Si è aperta ieri in Spagna la sessione del World Heritage Committee dell'UNESCO. Si tratta in sostanza del comitato che sceglie quali luoghi siano degni di diventare patrimonio dell'umanità. Il comitato, che ha anche il compito di verificare lo stato dei siti che patrimonio dell'umanità già lo sono, in questa riunione dovrà prendere una decisione sulle Dolomiti. L'Italia ce l'ha già fatta 44 volte, più di ogni altro paese al mondo, dal centro storico di Roma a quello di Venezia, dai Sassi di Matera ai Trulli di Alberobello alla costiera amalfitana. Ora manca solo l'imprimatur di Siviglia perché le Dolomiti si aggiungano ai luoghi patrimonio mondiale dell'umanità. Il comitato dell'UNESCO riunito in Spagna sta valutando i requisiti dei nostri Monti Pallidi e con loro anche quelli di altri 29 luoghi candidati a guadagnarsi un posto al sole. Sconfitta invece l'altra nostra proposta, l'Italia dei Longobardi, candidata da 7 città guidate da Benevento. Non è però una bocciatura, ma soltanto un rinvio. Anche quest'anno i siti culturali in lizza sono in numero superiore rispetto a quelli naturali, aspetto che rappresenta un vantaggio per le Dolomiti, che fanno parte di quest'ultima categoria insieme a tre zone litoranee di Corea, Germania e Filippine e al bacino del fiume russo Lena. In caso di esito positivo, i Monti Pallidi andrebbero a costituire il secondo sito naturale in Italia dopo le Isole Eolie e il primo sito seriale di montagna. Ora però la politica dell'UNESCO cambia. Di fronte al fitto esercito degli aspiranti, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha deciso di limitare il numero di candidature, 2 a paese, per un massimo di 49 l'anno e di promuovere stati e culture poco rappresentati. Non è certo il caso dell'Italia, che con i suoi luoghi di straordinaria bellezza ha fatto per anni la parte del leone. Anno d'oro il 1997, in cui 10 siti entrarono in un colpo solo nell'Olimpo dei beni protetti. Da Porto Venere alla Reggia di Caserta, dalle 5 Terre all'Orto Botanico di Padova. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:16 minuti 7 secondi, nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato dei ballottaggi alle amministrative, abbiamo analizzato il voto con il politologo Piero Ignazzi, poi abbiamo parlato del terremoto perché ci sono state nuove scosse nella notte, la più forte di 4.5 sulla scala Richter intorno alle 11 di sera, ma poi appunto altre ce ne sono state nella notte. Abbiamo parlato anche delle Dolomiti che mirano a vincere la sfida per diventare patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Adesso ci occupiamo di Iran. E lo facciamo innanzitutto con le notizie che arrivano oggi da Teheran. Il secondo mandato di Ahmadinejad inizierà ufficialmente tra il 26 luglio ed il 19 agosto, quando il presidente riconfermato giurerà davanti al Parlamento. Infatti il Consiglio dei Guardiani ha escluso l'ipotesi di annullare le elezioni presidenziali avendo riscontrato solo irregolarità non rilevanti. Una decisione che rischia di far salire ancora di più la tensione a Teheran. I sostenitori del leader moderato Mousavi anche ieri sono scesi in piazza per protestare contro il regime che non ha autorizzato cerimonie pubbliche per le vittime degli scontri. I dissidenti arrestati negli scorsi giorni inoltre vanno incontro a condanne talmente severe da dare una lezione a tutta la popolazione, come ha affermato un alto esponente della magistratura. Un'altra manifestazione organizzata da studenti fondamentalisti davanti all'ambasciata britannica per protestare contro le presunte ingerenze di Londra non è stata autorizzata. Intanto c'è attesa a Washington per il discorso del presidente Barack Obama, che potrebbe annunciare l'appoggio alla rivolta antiregime o puntare su toni più concilianti verso Teheran, mentre la crisi iraniana sarà discussa anche a Roma nell'incontro tra il premier italiano Berlusconi ed il collega israeliano Eliano Netanyahu. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. E a Roma l'Iran è protagonista anche per altri due eventi: una manifestazione di studenti iraniani in piazza Santi Apostoli e una conferenza stampa del regista iraniano Makhmal Baf, che è il portavoce di Mousavi all'estero. E allora che cosa ha detto Makhmal Baf? Lo chiediamo a Emiliano Enrico, che ha seguito questo incontro. Emiliano. Sì, buongiorno, sono reduce da questa conferenza stampa del regista Mohsen Makhmalbaf, conferenza stampa direi molto affollata e anche con dei momenti piuttosto commoventi, perché ho visto diverse fasce, nastri, maglie verdi che sono poi ormai diventate il colore simbolo della protesta per le vie di Teheran. C'è stato all'inizio un minuto di silenzio per le vittime della repressione, delle forze dell'ordine, della polizia, in particolare è stata ricordata Neda, la ragazza uccisa sotto gli occhi delle telecamere. Poi Makhmal Baf, che ha precisato di non essere esattamente il portavoce ufficiale di Mousavi, però ha detto che su richiesta esplicita di Mousavi è una specie di ponte per l'Occidente, per perorare così la causa di chi protesta contro la vittoria di Ahmadinejad. Ebbene, Makhmal Baf ha lanciato accuse pesantissime e ha utilizzato uno schema, direi dal suo punto di vista, molto lineare, perché ha detto che il voto è palesemente irregolare. Ha parlato di brogli addirittura per 12 milioni di voti, quindi un'enormità, e ha usato, senza mezzi termini, l'espressione colpo di Stato. Ha scandito anche slogan, direi piuttosto brutali, perché ha detto morte ad Ahmadinejad, morte a Khamenei, morte alla dittatura, morte alla bomba atomica, per quanto poi ha precisato che gli intenti della protesta e dei movimenti di piazza sono assolutamente non violenti, quindi si ispirano a Gandhi e a Mandela. E poi ha lanciato delle richieste precise all'Occidente, ha chiesto a tutti i governi di non riconoscere la vittoria di Ahmadinejad, a cominciare dagli Stati Uniti, e se l'è presa anche con Obama, perché insomma lo ha invitato a non fare più gli errori dei primi giorni, quando aveva detto che tra Ahmadinejad e Mousavi non c'era poi grossa differenza, e poi ha chiesto nuove elezioni sotto l'egida dell'ONU. Direi una prospettiva piuttosto improbabile. Bene. È stato anche un appello preciso al governo italiano, e chiudo, ha chiesto di fatto di revocare l'invito lanciato all'Iran dal nostro governo a partecipare al G8 del ministro degli esteri a Trieste nei prossimi giorni, di fatto invito inutile, perché Ahmadinejad ha bellamente ignorato la proposta italiana. Grazie Emiliano, ci hai anticipato molto ma non tutto, perché l'intervista a Makhmal Baf la potete sentire oggi pomeriggio in Jefferson 2 alle 16. E sempre dall'Iran una notizia che è stata battuta questa mattina dalle agenzie: un giornalista con cittadinanza greca che lavora per il quotidiano americano Washington Times è stato arrestato appunto in Iran. E ora andiamo in Francia per l'Airbus dell'Air France precipitato il 1 giugno al largo del Brasile con 228 persone a bordo. Non è ancora chiaro, ma ci sono state indicazioni che le scatole nere possano essere state individuate. Forse si riaccende la speranza di ritrovare le scatole nere dell'Airbus Air France precipitato al largo del Brasile. A riaccenderla ci ha pensato il quotidiano Le Monde, secondo il quale è stato captato un debole segnale dai mezzi impegnati nelle ricerche. La notizia non trova però conferma tra le autorità francesi. Stando infatti agli inquirenti che conducono le indagini sul disastro, ad oggi i registratori di volo non sono stati localizzati, e in questa ridda di indiscrezioni e smentite una cosa è certa: c'è sempre meno tempo per ritrovare le scatole nere nei fondali dell'Atlantico. I registratori di volo dell'Airbus Air France emetteranno difatti un segnale ancora per 8 giorni, poi sarà silenzio. ma a rendere molto difficili le ricerche ci pensano le caratteristiche dei fondali, che nell'area scandagliata sono molto accidentati e arrivano sino a 5.000 metri di profondità. Igor Fiatti, GR24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Ci sono ancora disagi alla circolazione ferroviaria. Veniamo così all'Italia, sulla linea Bologna-Firenze, dove ieri, lo ricordiamo, è deragliato un treno merci senza provocare feriti. In collegamento da Firenze, Ubaldo Cianciulli. Allora, Ubaldo, com'è la situazione? Sì, Alessandro, buongiorno. La situazione sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna, interessata ieri mattina dall'incidente ferroviario, sta lentamente migliorando. Un treno merci è deragliato e ha perso due carichi, hanno occupato anche l'altro binario, bloccando la circolazione ferroviaria e spezzando l'Italia in due per gran parte della giornata. I ritardi dei convogli ora sono di circa mezz'ora. In serata dovrebbe essere ripristinata una situazione di normalità. I treni tra Prato e Vaiano, dove si è verificato l'incidente, viaggiano con una velocità media di circa 30 km l'ora. Secondo l'amministratore delegato delle ferrovie, Mauro Moretti, dai primi riscontri non risulta alcun problema dell'infrastruttura e probabilmente l'incidente potrebbe essere stato determinato da un cedimento strutturale del carro che appartiene a una società privata genovese. Il carro, ricordiamolo, trasportava una cisterna di acido cloridrico che i vigili del fuoco stanno ancora travasando con molta cautela. I binari interessati dall'incidente hanno subito una rottura delle traversine per 4,5 km e questo è un lungo lavoro che sta interessando in questo momento gli operai. Questo tratto dovrà essere ripristinato, comunque le ferrovie sono ottimiste, in serata dovrebbe tornare tutto alla regolarità. E da Firenze per il momento è tutto. E grazie Ubaldo Cianciulli. Notizie di cronaca, la prima da Milano, dove un uomo ha coltellato l'ex compagna questa mattina davanti all'asilo nido dove la donna aveva appena portato suo figlio. I due hanno iniziato a litigare davanti al cancello della scuola, poi lui ha estratto un coltello e l'ha colpita almeno 4 volte. Monica Morra, 33 anni, è morta all'ospedale San Raffaele e l'uomo, 40 anni, è stato bloccato dai carabinieri vicino al luogo dell'aggressione. E ora a Napoli, dove una ragazza è stata pestata a sangue perché ha cercato di difendere alcuni gay aggrediti da un gruppo di skinheads. Ci racconta tutto, appunto, da Napoli, Enzo Danna. Sì, buongiorno, è successo la scorsa notte in Piazza Bellini, tradizionale luogo di ritrovo di giovani anche per la presenza di locali alternativi. La ragazza 26enne era in compagnia di un amico che ha cercato di difendere dall'aggressione omofobica di un gruppo di skinheads. Tutto è partito da un apprezzamento poco carino, poi si è passati agli insulti offensivi nei confronti del giovane omosessuale e di altri suoi coetanei. La ragazza è intervenuta ed è stata colpita con violenza al viso, con pugni e calci, ha riportato lesioni gravi, ora rischia di perdere un occhio. Va detto che non è la prima volta che si verifica un episodio del genere, è già capitato che gruppi di scalmanati hanno preso di mira giovani omosessuali in passato, ragazzi che abitualmente frequentano la piazza, in qualche occasione sono stati aggrediti oltre che a parole anche con le mani. È tutto da Napoli, vi restituisco la linea. Grazie Enzo Danna per questi aggiornamenti. Andiamo a Roma adesso, dove è stato presentato il terzo ed ultimo volume delle linee guida per la gestione innovativa dei beni culturali. Di cosa si tratta? Di uno strumento che il Ministero dei Beni Culturali mette a disposizione di coloro che si occupano della valorizzazione del patrimonio. Adriana Fracchi ha intervistato Alessandro Leon, consulente del Ministero. Noi sappiamo che il territorio è protetto da tantissimi beni, perché l'Italia è un paese molto ricco sotto questo profilo. Il problema, diciamo, di innovazione che noi abbiamo è quello di cercare di renderli sempre più attrattivi, più aperti, sia per un pubblico locale sia per flussi di carattere turistico. Le linee guida sono un tentativo, diciamo, diviso poi tra l'altro in 3 volumi, per cercare di dare informazioni a degli amministratori locali, che per il 90% sono i proprietari dei beni culturali, per mettere in piedi un progetto culturale e una gestione innovativa delle attività culturali. Purtroppo fino ad oggi l'esperienza ci mostra che senza avere degli strumenti per indirizzare alla gestione è molto spesso difficile che ai restauri, pur numerosi, che sono stati effettuati nel mezzogiorno, non segua effettivamente una gestione. Concretamente, quali possono essere i criteri per spendere meglio i soldi? Abbiamo spinto moltissimo per cercare di trovare forme di integrazione, di aggregazione delle strutture museali, cioè vale a dire non bisogna fermarsi a gestire il proprio piccolo museo, che spesso è molto piccolo, o la sua piccola biblioteca, ma è necessario trovare delle forme che siano in grado di mettere a sistema il patrimonio. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Ballottaggi dentro i partiti al momento delle analisi. Il PDL festeggia per la provincia di Milano, il PD ragiona sul congresso e sull'alleanza con Casini. Berlusconi commenta: magari perdere ogni volta così. Una nuova forte scossa di terremoto ieri sera nell'Aquilano, 4,5 gradi sulla scala Richter, avvertita anche a Teramo, Pescara e Roma. Altre scosse più deboli nella notte e in mattinata. Ha difeso un gruppo di omosessuali aggrediti dagli skinhead, ora una ragazza di Napoli di 27 anni picchiata a sua volta dai nazisti rischia di perdere un occhio. Lotta all'evasione, la Guardia di Finanza fa meglio del 2008, nei primi 5 mesi recuperati quasi 14 miliardi di euro. Intanto OCSE ed Europa lanciano nuovi allarmi sull'Italia. Secondo Bruxelles il debito pubblico peserà sulla ripresa. Secondo l'organizzazione di Parigi preoccupa la spesa pensionistica. In Iran il Consiglio dei Guardiani ha deciso, le elezioni non saranno ripetute. Ahmadinejad, verso il giuramento entro la metà di agosto, è stato arrestato un giornalista del Washington Times. Improvvisa rottura tra il Bari di calcio e il tecnico Antonio Conte. In un comunicato la società informa che la società e il tecnico hanno deciso di interrompere il rapporto. Il comitato dell'UNESCO, riunito da ieri, deciderà se le Dolomiti sono patrimonio dell'umanità. Parliamo, come si diceva prima, dei dati della Guardia di Finanza, che ha scoperto redditi nascosti al fisco per quasi 14 miliardi di euro. E questo solo per i primi 5 mesi del 2009. Tutti i dettagli sul bilancio delle Fiamme Gialle da Vincenzo Miglietta, in collegamento da Roma. Vincenzo. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sono dati quelli diffusi della Guardia di Finanza che dimostrano che la lotta all'evasione non conosce flessioni. In soli 5 mesi, i primi del 2009, le Fiamme Gialle hanno scoperto infatti i redditi nascosti al fisco per 13,7 miliardi di euro. A questi si aggiungono 2,3 miliardi di IVA dovuta e non versata e gettito mancato IRAP per 8,7 miliardi. E questo è un bilancio decisamente positivo per la Guardia di Finanza, con un più 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che già aveva fatto segnare un record come il migliore degli ultimi 10 anni. In particolare sono stati individuati 3.200 evasori totali, tra questi sono rilevanti casi di evasione internazionale con spostamento all'estero della residenza fiscale, triangolazioni con paesi offshore ed omesse dichiarazioni di capitali detenuti all'estero. Ma i fenomeni di evasione fiscale non riguardano solo redditi e mancati versamenti, diverse infatti le truffe in materia di finanziamenti comunitari, diritti doganali evasi, monopolio statale sui giochi disatteso. L'attività della Guardia di Finanza insomma è a 360 gradi, i vertici dell'arma garantiscono la lotta all'evasione fiscale sarà anche nel 2009 il nostro obiettivo prioritario. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E se le Fiamme Gialle fanno un po' i conti sull'evasione fiscale, il governo invece deve fare i conti con la crisi. Sì, è alle viste, ve ne abbiamo parlato già ieri, un provvedimento a favore delle imprese. Tutto dovrebbe essere compreso nella cosiddetta manovra d'estate. Ci dovrebbero essere aiuti fiscali per le imprese che reinvestono gli utili, meccanismi per velocizzare i pagamenti della pubblica amministrazione alle aziende. Anche di questo si parla in queste ore ad una riunione dell'Aspen Institute, ospiti anche la presidente di Confindustria Emma Marcello Gaglia e il ministro dell'economia Giulio Tremonti, incontro che si sta svolgendo a Roma. I lavori vengono seguiti per noi da Chiara Di Michele. Chiara. Sì, buongiorno. Il primo tema affrontato dal presidente di Confindustria Emma Marcegaglia con i giornalisti prima di entrare al convegno è proprio il decreto sulla manovra estiva che dovrebbe essere approvato dal prossimo Consiglio dei Ministri. Il numero uno degli industriali si aspetta dal decreto un segnale chiaro alle imprese, in particolare per quanto riguarda la detassazione degli utili reinvestiti, gli aiuti alle imprese che non licenziano e l'aumento della compensazione tra debiti e crediti. Emma Marcegaglia ha poi commentato anche le ultime rilevazioni Eurostat che indicano l'Italia come il paese UE con il più alto carico fiscale sul lavoro e ha sottolineato: ci aspettiamo nel medio termine un calo della tassazione sia sulle imprese che sul lavoro. Infine ha affrontato il tema della crisi, la presidente di Confindustria ribadisce la sua preoccupazione per il protezionismo. Se oggi guardiamo con meno timore al crash finanziario, ha detto Emma Marcegaglia, rimane il timore di misure protezionistiche che già secondo uno studio 47 paesi hanno applicato ma hanno un effetto negativo. In questo momento sta parlando il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che a margine conversando con i giornalisti ha affrontato il tema delle regole ribadendo che servono regole condivise, perché o le regole sono condivise dai popoli o stiamo preparando solo la prossima crisi. Così il ministro Tremonti, che sta terminando il suo intervento. Grazie Chiara Di Michele. Nel frattempo la Commissione europea lancia un nuovo allarme sui conti pubblici italiani. Nel rapporto 2009 sullo stato delle finanze pubbliche si legge che gli squilibri interni derivanti proprio dal debito possono pesare sulla crescita potenziale. E un altro istituto internazionale parla dell'Italia, oggi è l'OCSE, e si riferisce alle pensioni, che è un altro tema caldo per tutti i governi ormai negli ultimi anni. In più di occasioni, lo ricordiamo, esponenti del governo, primo fra tutti il ministro del welfare Sacconi, hanno detto che non è il momento per mettere mano ad una riforma, riforma invece che chiesta con forza dagli imprenditori. E oggi l'OCSE ha fatto sapere che l'Italia, il dato è del 2005, è il paese dell'OCSE con il più alto livello di spesa pensionistica, pari al 14% del prodotto interno lordo. Nel decennio 95-2005 la spesa previdenziale è aumentata del 23%. Maria Carla De Cesari, che per il Sole 24 Ore si occupa spesso di pensioni, ospite nostra in studio di Extra Large. Allora, come possiamo interpretare questi dati? Buongiorno, diciamo che il rapporto OCSE fotografa una situazione per molti versi ben conosciuta dagli esperti. Tra l'altro, secondo le ultime proiezioni della Ragioneria dello Stato, la spesa pensionistica in rapporto al PIL è destinata a crescere nel 2010 ad assestarsi verso il 15% del PIL. Quindi, come dire, la crescita pensionistica... Ma questo, Maria Carla, anche perché... cambia il PIL, anche perché scende il PIL. Purtroppo sì, naturalmente la crisi non fa bene e come dire, il peso delle pensioni si fa sempre più sentire in quanto il PIL in qualche modo si riduce. Tra l'altro, appunto, nel primo trimestre 2009 rispetto al primo trimestre 2008 il calo è fortissimo, è del 6%, quindi tutto questo non lascia indenne la spesa pensionistica. Ecco, abbiamo sottolineato che questi dati si riferiscono al 2005. Sappiamo che dal 95 c'è stata la riforma pensionistica Dini, che non è entrata addirittura ancora a regime, tantomeno lo era nel 2005. Questo vuol dire che quando sarà a regime le cose miglioreranno? Comunque negli ultimi tre anni, diciamo dal 2005 al 2008-2009, stanno migliorando? Ma il problema come dire, delle riforme in Italia è quello, come dire, che si fanno riforme ma in qualche modo si ha... poco coraggio nell'andare fino in fondo. Come sappiamo, la riforma del 95, che è entrata in vigore nel 96, che ha introdotto il regime contributivo, lo ha introdotto solo, diciamo, per i nuovi lavoratori, quindi per chi ha iniziato a lavorare dal 1 gennaio 96, per chi, come dire, si trovava in mezzo al guado, ha previsto un sistema misto, per chi aveva 18 anni alla fine del 95 si va avanti con il sistema retributivo. Il fatto che appunto il contributivo arrivi a regime in modo molto graduale è naturalmente un problema. L'altro problema a cui si è cercato di intervenire con un progressivo innalzamento, una progressiva stretta per le pensioni di anzianità. Ora sembra che anche questo non sia sufficiente. Con la riforma Maroni si era tentata la strada, come dire, dello scalone. Con il governo Prodi si è scelta una strada più graduale. In realtà ancora adesso si parla di un piccolo innalzamento dell'età pensionabile. Il problema è queste riforme così poco coraggiose, che in qualche modo ci obbligano e ci stressano ogni due, tre anni, ogni anno e mezzo in questo caso, se siano effettivamente come dire, vantaggiose, e se invece non sia il caso di con il consenso delle parti sociali, naturalmente, andare ad una riforma che in qualche modo possa consentirci di stare tranquilli per un po' di anni, perché tutti questi cambiamenti naturalmente non fanno bene né ai lavoratori né ai conti pubblici. Grazie Maria Carla De Cesari per averci illuminati su questi dati dell'OCSE. Noi passiamo a parlare di Francia, Alessandra. Sì, perché ieri il presidente Nicolas Sarkozy ha tenuto un discorso davanti a senatori e deputati che erano riuniti in congresso in via eccezionale a Versailles. E fra le cose che ha detto Sarkozy, ha detto anche che il burqa è un segno di asservimento della donna e che non è dunque il benvenuto sul territorio della Repubblica Francese. Andiamo a sentire come i giornali arabi hanno commentato questa notizia. Ce ne parla Adib Fateli. Ma il signor Sarkozy vuole per caso che ci denudiamo in pubblico come fa la sua signora Carla? Con questa domanda una donna musulmana scrive alla TV Al-Arabiya per protestare contro le parole del presidente francese contro il niqab e il burqa islamici. Leggendo i siti arabi, per la verità, non tutti i commenti sono di questo tenore e si scorge una prevalenza di favorevoli che si dice al 100% d'accordo e applaude il coraggio di Sarkozy che scardina un'usanza non musulmana. Ma tra i fondamentalisti la condanna è netta. Oltre agli attacchi contro la falsa democrazia occidentale, al razzismo del sionista Sarko, non manca chi definisce il capo dell'Eliseo Gran Mufti di Francia che vuole insegnarci l'Islam. Diverse lettere di proteste pensano che il divieto sia riferito al velo che non copre il viso. Imparate a leggere, avvisa dell'equivoco uno che si fa chiamare uomo che detesta chi vuole coprire la donna con una tenda nera. Adifa Tahali, GR24, Il Sole 24 Ore. Giulia Crivelli, invece, che come ne parlano i giornali francesi oggi in edicola di questo discorso di Sarkozy? Beh, naturalmente prime pagine per tutti, quindi da Liberazione alle Figaro e poi anche Les Echos, perché veramente Sarkozy ha toccato tutti i punti, no? Dall'economia a quello che dicevamo prima sul burka. La cosa interessante è che ne parlano anche altri giornali, soprattutto conservatori, quindi fuori dai confini della Francia, perciò per esempio il Times piuttosto che la Faz in Germania, perché Sarkozy ha cercato, secondo per esempio la Faz, un po' di rispondere alle critiche che ha ricevuto fino adesso, cioè di essere uno che ha promesso grandissime riforme sulle pensioni, sull'università e poi in realtà non ha fatto tanto. Naturalmente sappiamo complice la crisi, però forse questo potrebbe essere anche un insegnamento per altri leader che si trovano accusati delle stesse cose, cioè di aver avuto dei programmi elettorali che li hanno portati dove sono adesso e poi però aver tradito le aspettative dell'elettorato. Quindi molto interessante il discorso di Sarkozy secondo tutti, naturalmente anche la sua decisione di adottare questa politica di austerity e di pressione fiscale è per esempio per Les Echos, che però è a sua volta un giornale conservatore, una scelta giusta. Una notizia, prima poi di parlare di un altro leader europeo, che arriva dal Marocco, per la precisione da Marrakech, dove c'è stata una donna, visto che parlavamo di burka poco fa e del rapporto delle donne con il mondo islamico, che è stata eletta sindaco. È una donna, una giovane donna, un avvocato che si chiama Fatima Al-Mansouri. Giulia, cos'altro hai scelto dai giornali internazionali per noi? E poi insomma c'è un altro leader. Lo conosciamo bene, naturalmente Berlusconi, anche oggi molto presente sui giornali, da una parte del mondo, anche qui un po' a sorpresa, nel senso che è stato il Paes, come sappiamo, finora a occuparsi molto delle vicende connesse a Berlusconi, all'inchiesta di Bari, e ora invece oggi è il mondo che dà conto appunto di tutte queste inchieste nate poi per un problema di appalti, come sappiamo, a Bari, quindi in cui Berlusconi è entrato un po' per caso. Poi però il Guardian, questo invece è un giornale schieratissimo contro Berlusconi, non da oggi, ha un editoriale dove si contesta ancora una volta l'atteggiamento di Berlusconi in generale verso le donne. Secondo il Guardian, se si facesse un concorso per decidere chi è il leader più sessista in Europa, è Berlusconi. E su un altro giornale inglese, il Times, rimbalza anche qui, sappiamo, il Times accusato di essere contro Berlusconi perché fa parte della galassia Murdoch, sul Times invece rimbalza quell'appello che trova spazio anche su Repubblica, credo da noi, l'appello delle scienziate italiane alle First Ladies che sono attese al G8 per disertare il G8 perché appunto come protesta verso il sessismo di Berlusconi. Il Times dedica a Richard Owen, il corrispondente da Roma, dedica questo appello di illustri ricercatrici e scienziate italiane un grande spazio, è un po' se vogliamo l'ennesima punzecchiatura del Times a Berlusconi. Altre segnalazioni per oggi, Giulia? Una cosa carina sul Washington Post le innovazioni che ci sono dei dentisti americani che hanno deciso di introdurre per tutti i loro piccoli pazienti delle sale speciali con molti giochi, che in realtà io lo dico perché ho paura del dentista, anche a me piacerebbe avere un'esperienza un po' più giocosa. Giulia, trovami una persona che abbia piacere ad andare dal dentista, non ce ne vogliono i dentisti, ma insomma l'idea è che per questi pazienti, come succede anche per tantissime altre specialità, ci vogliono delle cure particolari, e quindi insomma l'inchiesta del Washington Post su come si stanno attrezzando i dentisti, naturalmente con grande gioia anche dei genitori, perché deve essere un incubo avere il bambino sulla sedia del dentista col terrore che si muova nel momento sbagliato. Grazie anche per oggi, Giulia, buona giornata. Le 13:48 esatte, parliamo di noi italiani. Sì. Sì, perché nel 2008 la popolazione residente in Italia ha superato la soglia dei 60 milioni di abitanti. Pensate che esattamente 50 anni fa avevamo superato un'altra soglia, ossia quella dei 50 milioni. Questo è uno dei tanti dati che è contenuto nel bilancio demografico nazionale 2008 dell'Istat, che è stato diffuso questa mattina. Il numero medio di componenti per famiglia risulta stabile rispetto all'anno precedente ed è pari a 2,4. Il valore minimo è di 2 e si rileva in Liguria, mentre il massimo è di 2,8 in Campania. E su questo Katia Caramelli ha intervistato la ricercatrice dell'Istat, Angela Silvestrini. La prima notazione da fare è che la popolazione residente in Italia alla fine del 2008 ha superato i 60 milioni di abitanti. Dopo 50 anni dal superamento dei 50 milioni di abitanti, questa nuova soglia demografica è stata superata. Grazie agli extracomunitari? Abbiamo visto che cosa è successo negli ultimi 7 anni. Allora, se noi guardiamo alla sola componente di cittadinanza italiana, vediamo che perdiamo popolazione, circa 400.000 persone in meno negli ultimi 7 anni italiani. Se andiamo a vedere invece la componente straniera, vediamo che questa cresce sia per il saldo naturale di più di 300.000 unità, sia per l'immigrazione dall'estero di 2.400.000. Questa situazione non è uniforme su tutto il territorio italiano. Cioè, mentre il nord e il centro sono fortemente caratterizzate da questo tipo di dinamica, quindi una ripresa dell'incremento della popolazione dovuta all'immigrazione, dovuta anche in molti comuni a un saldo naturale positivo, appunto dicevo, trascinato da queste nascite di bambini stranieri, no? Nel sud la situazione è più composita. Noi abbiamo comuni in perdita di popolazione perché si emigra verso il centro e verso il nord dell'Italia, comuni che perdono popolazione perché, pur essendoci una situazione, diciamo, migratoria stabile e in parte compensata anche delle migrazioni dall'estero, che anche lì ci sono, si perde per un saldo naturale diventato negativo. Cioè, noi abbiamo zone della Campania, della Sicilia, che avevano tradizionalmente una crescita naturale, no, molto forte, che invece hanno iniziato ad andare in perdita per questo motivo, perché le nascite sono diminuite. Ma abbiamo ancora comuni che tengono proprio per questo, cioè soprattutto in Puglia, in Campania e anche in alcune zone della Sicilia abbiamo una popolazione che aumenta ancora per un saldo naturale positivo. Spazio ai libri adesso. Alessandra, di cosa ci parli oggi? Dell'ultimo romanzo di Elisabetta Bucciarelli, si intitola Io ti perdono ed è pubblicato da Kowalski. Anche in questo caso si tratta di un giallo e come protagonista ritroviamo l'ispettore Maria Dolores Vergani, che è un personaggio ormai diventato seriale per la Bucciarelli. È un personaggio che l'autrice ci descrive così. Maria Dolores Vergani è una ex psicologa riconvertita all'arma della polizia e fa un concorso, diventa ispettore e diventa quindi la mia protagonista seriale, quindi al centro di tutte le indagini c'è lei. Ha un'età compresa, io la racconto, tra i 35 e i 40 anni, quindi un'età delicata per le donne perché sono sì nel massimo della loro forza, però cominciano a fare i conti, no, con quello che hanno e quello che non hanno. E infatti è un personaggio, una donna che ha molto a che vedere con le emozioni e i sentimenti che non si sanno nominare, non si sanno vivere anche, no? In questo romanzo l'ispettore Vergani segue tre diverse inchieste. Quali? Allora, la prima, la più importante, quella che appunto fa iniziare il libro, è la scomparsa di una bambina, no? In un bosco, un bellissimo bosco valdostano. Era coi genitori a raccogliere castagne, piano piano si allontana, segue un cagnolino, delle voci e sparisce. Da questo caso poi prendono vita anche altri due casi collaterali. Uno, un ritrovamento di uno scheletro che poi si capirà essere di una giovane donna sparita negli anni 70. E l'altro invece un caso un po' più sdrammatizzato, ironico, un gruppo di prostitute dell'est che si sono insediate nella parte nord-est dell'Italia e che stanno appunto arricchendo una serie di personaggi, dei loschi figuri, no? Quindi anche questa è una delle tre storie che lei si troverà a vivere, che combaceranno poi con la sua ricerca profonda di identità. Prima di chiudere, un rapido riepilogo dei titoli della giornata.